I 200 anni del tricolore. Il tricolore non è una bandiera particolare. È la bandiera universale della libertà e dell'indipendenza, dell'unità affermata o ritrovata e del riscatto dei popoli. Gli stessi colori del nostro li ritroviamo nelle bandiere di altre nazioni fondate o rifondate sui principi rivoluzionari del 7 e dell'Ottocento. Ciascuna delle città-stato della nostra storia frazionaria, per quanto illustre, sottomise il suo araldico stendardo all'umile e fresca insegna di una stagione di umano rinfrancamento. L'amore e la speranza sono impliciti come l'aria e l'acqua nel patto che presiede la deliberazione di Reggio. Senza questi elementi il patto non ha valore. Ci furono e vollero esserci all'origine, si intossicarono spesso, ma non mancarono nelle grandi prove a cui fu chiamato il paese quando, al di là delle regole istituzionali, sembrò che il tricolore dovesse immergersi nella fonte primaria e nel mare di consenso dilagato durante le guerre del Risorgimento. Sono le prove mediante le quali una nazione varia si abituava a stare insieme, a vivere la propria unità. Mario Luzzi.